Questo è Rock FM, la squadra di pane, burro e rock and roll, alle 7:30 del mattino, il nostro viaggio interstellare nello spazio. Ma che sta a dire? Buongiorno dall'Ariele, dai. Il monolito è sempre lì. Allora, segnalazioni al nostro numero di SMS, segnalazioni meteorologiche, abbiamo un inizio di nevicata a San Pietro Terme, provincia di Bologna, grazie Fungo. Ci segnalano che nevica a Firenze, ce lo scrive Eros, quindi mi manca la Liguria. Milano non sta nevicando, o comunque è quella roba lì veramente pochino pochino. E a proposito abbiamo anche... Io guarda, non continuo a non riuscire a non stupirmi di quanto merito certi radioascoltatori. Un amico non resiste a volerci segnalare un famoso detto del mondo gay: il sesso è come la neve, non sai mai quando capiterà né quanti centimetri ne verranno. Grazie Franz, bello appuntino, eh? Grazie, grazie mille. And you may ask yourself, where is that large automobile? possiamo anche non farlo, eh? Cioè, nessuno ci obbliga a fare le parole ribelli. Assolutamente! È indispensabile. No, ma possiamo, cioè, possiamo anche fare il cabaret libero, così facciamo delle battute. Assolutamente. No? La rubrica Parole Ribelli è estremamente rigorosa, parla di cultura, il rock e cultura. Che è imprescindibile. Assolutamente sì. Rock e cultura, cultura e rock. Gli idiomi ribelli, gli idiomi rock letti da un gran pezzo di idioma chiamato Roberto Fricantoni. La ringrazio per l'idioma. Prego. Ha una parola anche quest'oggi? Naturalmente no. Oh, e allora, figata. E allora parliamo di morchia. Come di morchia? Ah, è la parola di oggi? Sì, la parola ribelle di oggi, l'idioma rocchettaro è morchia. E che vuol dire? Ce lo dico. Morchia. Morchia. Deposito viscoso. Bene. Che lascia l'olio sul fondo dei recipienti. Ah, interessante. La morchia è un sedimento, un fondo unto e sudicio. Una feccia, insomma. Ah, eccolo, bene. Ecco, sinonimo di morchia, ralla. Ralla. Io dai microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll vorrei lanciare questo nuovo epiteto, questa nuova offesa. Che è rock e che è? Lei è una ralla, che vuol dire lei è una morchia, cioè lei è proprio una schifezza. Sì, abbiamo capito. Un fondo unto, un sedimento, un deposito viscoso, insomma, lei è una ralla. Sì, ma se lei fumasse la pipa, come tutti gli intellettuali rock, potrei dirle: guardi, che questa pipa lascia un sedimento di tabacco che si chiama gruma. Ah, non più ralla, ma gruma. Esatto, è una variante di morchia. E potrei dirle, lei è una gruma? Beh sì, con un po' di forzatura mi piace, lei è proprio una gruma. Però lei preferisce, lei è una ralla? Sì, la mia bella morchia. Avrei tanto voluto saperlo, da adesso lo so, grazie maestro. Prego, è stato un piacere, la mia bella morchia. E me, che c'è? parte della colazione di stamane anche i Supertramp di Give a Little Beat. Benvenuti, benvenute su Rock FM. C'è l'Ariele che vi augura la buona giornata in questa seconda puntata dell'anno. Allora, dovevo fare devo chiedere perdono in ginocchio cospargendomi il capo di cenere e mettendo la mia testa sotto i vostri piedi, che voi potete anche muovervi, a coloro che numerosi hanno scritto speranzosi alla mia casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com chiedendo il calendario 2008, l'anno della svolta. Tra l'altro è con gioia che in queste prime due puntate, per controllare che giorno è, io getto il mio sguardo fugace verso una copertina dei Ramones ritoccata, con dentro l'Ariele, il Matthews, Mox Cristadoro e Roberto Fricantoni. Allora, amici e amiche che avete scritto le mail, c'è Isaac Rizzi, capo della redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll, che è tipo a fare la settimana bianca, non la settimana bianca, però in vacanza, non è ancora tornato. E visto che è l'unico sottomesso della redazione, nel senso che verticalizziamo qui a Pane, Burro e Rock'n'Roll, Frick sta sopra di me, io sto sotto Frick, lui Isaac Rizzi sta sotto me. Ho detto a lui: Isacco, occupati tu delle spedizioni del calendario. Adesso non c'è, quindi voi direte: beh, grazie Ariel, però potresti almeno rispondere. Hai ragione. Ma adesso siete diventati troppi e non ho più coraggio di aprirle le mail. Quindi le tengo lì comunque, Potete fidarvi dell'Ariele. Arrivo in ritardo, sono un po' come il diesel, il carburo, ma poi arrivo. Quindi a coloro che hanno richiesto il calendario, prima o poi notizie ce le avrete, soprattutto voi che avete scritto dalla Romagna, perché per quanto riguarda, e dalla Liguria, per quanto riguarda gli amici milanesi e gli amici toscani, sto puntando a una distribuzione diretta, insomma venite alle serate e lo prendete direttamente lì. Quindi amici romagnoli e liguri, attendete risposta. Mentre per esempio per gli amici milanesi, guarda, tac, bel preciso, sabato questo sono all'Atomic Bar qui a Milano, vicino anche alla radio, e mi porto dietro il calendario 2008, l'anno della svolta, quindi se interessa è lì. Sabato prossimo, il 12, siamo alla Flog con le patenti da vero rocker a Firenze, e anche lì vi beccate il calendario se siete interessati, ok? Salve Giovanna. Ciao, no, Ariel. Giovanna. Che mio nome è Roy. Il mio Ariel. Sei del Texas? No. No, di Gallarate. Anch'io sono di Gallarate, strano. Noi cowboy di Gallarate vi auguriamo un ottimo risveglio o un ottimo lavoro, visto che probabilmente state già lavorando, un'ottima passeggiata in macchina, suona male, insomma un ottimo quello che volete voi. 18 and Life. The streets are so true and he's fine. 18 and Life, la grande musica di Rock FM per la vostra colazione mattutina. Allora 335-100-7777, il nostro numero di SMS, oggi e ancora domani pronto ad accogliere le vostre richieste, le vostre proposte per la nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, al grido di non chiederti cosa PBR può fare per te, ma cosa tu puoi fare per Pane, Burro e Rock and Roll. Via SMS Antonio si complimenta con Frick per la storia degli Schiantos raccontata dal maestro Frick Antoni sulle frequenze di Radio 3. Tra l'altro grazie Frick per avercelo detto, eh. Oh, Frick Antoni non dice nulla, eh? Mannaggia, si tiene tutto e se lo dimentica, non si ricorda nulla Frick Antoni. Ho avuto piacere anch'io di sentirla, caro Antonio, niente male, sei in banana dura. Saluti anche a Steda Sesto, ci racconta: stamane sono sceso a spostare la macchina per il lavaggio strade e ho visto un lampione crepuscolare spento, ho pensato dai amico riprenditi, siamo in squadra con te, devo andare in analisi o smettere di ascoltarvi? Analisi, al massimo 30 gocce dovrebbero farti passare queste cose, ma essere affezionati ai lampioni crepuscolari credo faccia bene a noi della... A noi del primo turno della giornata, no? Sono una certezza, una speranza, una luce, va bene. Io volevo proseguire con Frick la mattina, ma... Dove è andato Spadini? Ah? È sceso? Ah sì. Perché da ieri sdoganiamo, abbiamo sdoganato il nuovo reparto. Essere rockstar in Italia e il precariato. Quindi la possibilità per il maestro di arrotondare un po' lo stipendio. Che non è mai tanto. Quindi oggi, cioè ieri gli abbiamo fatto fare il babysitter. Oggi che succede, Spadino? No, è andato? È andato giù in metropolitana? Buona! Allora colleghiamoci con la fermata Repubblica. Che combina, Frick? Ma che combini? Buongiorno a tutti, salve, buongiorno signora, signore, salve, sono, mi presento, scusate, sono Frick Antoni, un poeta squattrinato come tutti i poeti, e vi vorrei sottoporre delle liriche, scusate, ma non è facile esprimersi qui davanti a un pubblico, liriche di Fosco Mareini, che io ammiro molto, il lonfo. Il lonfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce bisce sdilenca un poco e gnagio s'archipatta. Grazie, signore. Potete dare qualcosa, un piccolo aiuto, un sostegno? Ma va a lavorare, barbù!